Zeman secondo me è una persona molto molto intelligente, è anche un grandissimo paraculo. Finale in Australia, vittoria Roland Garros, quarti a Wimbledon e qui una vittoria, c'è un anno incredibile. Abbiamo apprezzato subito cose diverse di questo uomo, che è una persona che aveva lavorato anche alla Caritas. Tutti convocati di Carlo Genta. Questa sera tifo Milan perché sono italiano. Tra pochi giorni devo partire, mi trasferisco, è sempre così, non indovino mai i tempi giusti. Non mi so spiegare, scusami, lo so, ma è che io resterei per sempre su questa panchina. Giuro, non è Stramaccioni, sempre lo giuro. Franco Piattarita, autore di questo programma e di questi magheggi sonori, Roberto Scaltritti in regia. Io ve l'avevo detto, ve l'avevo promesso, insomma, voi non mi credete mai. Ci sei cascato, scemo. Ci siete cascati voi. 800 24 00 24, numero verde, ve l'avevo detto che ci saremmo divertiti con il domino dancing degli allenatori. D'altra parte, di comiche e di barzellette ce ne intendiamo. Qua fuori dalla nostra finestra c'è l'antico derby, il cabaret dove sono nati, è nata l'ultima generazione dei grandi comici italiani, ora trasformati in un centro sociale multicolor. Però Moratti e Berlusconi, se non altro per ragioni anagrafiche, lo conoscono, magari ci sono anche stati, figurarsi. Berlusconi appassionato di battute e di canto, com'è. Vabbè, allora partiamo dal Milan. Allora, vicenda Milan. Galliani aveva detto questo: quando lo incontrerò, penso che lo incontrerò mercoledì, perché oggi fino a domani non c'è. Poi domani sera festeggiamo la squadra che 50 anni fa ha vinto a Wembley la prima Coppa dei Campioni del Milan, quindi presumo che, ma tanto non è che stia, lo sentirò mercoledì, capirò che cosa vuole fare, poi con il presidente prenderemo delle decisioni. Allora, il presidente ieri sera doveva essere ospite al processo di Biscardi, se non altro in voce, se non altro al telefono, e invece è arrivata una lettera, questa. Dopo il disastroso girone di andata prima di Napoli-Milan, ho convocato i dirigenti e l'allenatore del mio Milan e ho detto a tutti con estrema chiarezza che bisognava assolutamente capovolgere la situazione e riassettare il Milan. Come società e squadra ho specificato come avrei voluto che il Milan si schierasse in campo, diversamente da come aveva fatto fino a quel momento. I risultati di questa metamorfosi, modestia a parte, si sono visti da quella partita. Siamo passati dalla zona retrocessione al terzo posto conquistato ieri. Ho predisposto già da domani, NDR oggi, un riassetto completo dei quadri tecnici, anche se ci fosse bisogno di una più efficiente e completa riorganizzazione societaria. Questa è la lettera che Biscardi ha detto, inviata da Berlusconi. Ci sono voluti 17 minuti 17 perché sul sito del Milan comparisse la smentita. Il cavalier Berlusconi, non so come l'hanno nominato, il presidente onorario Berlusconi, non ha mai rilasciato dichiarazioni né scritto lettere sul Milan oggi. E allora chi è Pinocchio, chi mente, chi è il truffatore? Biscardi dice di no, eccolo. Siccome qui si parla di Allegri, di un suo esonero, eccolo qui, mi ha detto che viene al processo lunedì, quindi aspettatevi lunedì. Sì. Poi mi ha telefonato ieri 2 ore. E mi ha detto: guardate, c'ho da fare uno, c'ho gli avvocati, c'ho tutta la fase politica, eccetera, non posso venire. Però fai quello che vuoi, non sentire mai, è andato a scrivere quello che io ho letto, quelle cose lì, ho registrato nella seconda parte e ho fatto. Poi che è successo? Che i Galliani che stavano mangiando in ristorante, e io ero andato di traverso, perché ha capito? Forse ci sarebbe bisogno del traduttore, ma fa niente, se il senso l'avete capito, Galliani è andato alla cena di traverso, anche perché si parla di riassetto dei quadri tecnici, quindi Allegri via, ma anche di probabile riassetto dei quadri societari, e qui entra in gioco anche la posizione di Galliani, che da tempo non è più in maniera più o meno velate in sintonia con il numero uno del club. Ci sarebbe anche Moratti e qui passiamo sull'altra sponda del naviglio. Tutti convocati. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? La canta tutti i giorni anche Stramaccioni. I'll be here till the end of time. Non so se cantate anche voi, se no parlate, 800240024, come ha parlato questa mattina Massimo Moratti. Premessa, Stramaccioni ha detto domenica, ho parlato col presidente, so esattamente cosa pensa Moratti per il futuro, parlerà soltanto lui. Allora, Moratti ha parlato, per prima cosa di questa. Ma che cosa vuol dire finita la Stramaccioni? Non ho ancora parlato né con lui né con nessun altro, quindi vediamo in questi giorni qui cosa, se ho tempo di mettere le cose a posto. Ma vedremo se in questi giorni ho tempo. Dice anche dell'altro Moratti. Beh, vi sto dicendo che non sto ancora dicendo che ho cambiato idea, sto soltanto cercando di fare un riassunto di tutto quello che è successo e cercare di capire qual è il bene dell'Inter. Questo, niente di più di questo. Però le voci e i cinguetti di Twitter e i siti internet dicono che, me lo avevamo anticipato ieri, poi dico non sia vero, però Branca avrebbe parlato con Mazzarri in questa Inter da rifondare, per questa Inter da rifondare. Ma Moratti lo sa? Eh beh, lo stesso ragionamento che farei lo faccio anch'io, cioè da una parte c'è il talento di un ragazzo che certamente avrà successo nel suo mestiere, dall'altra parte c'è una situazione di questo genere, quindi sto pensando e sto ragionando qual è la scelta migliore. Vedete, ma grazie. Mi piace Mazzarri. Ma guardi, poi devo lavorare all'Inter, che è una cosa diversa. Male, male, ma vuole bene, bene, male, male, male, male. 800240024, non vedo l'ora di sentire le vostre voci, ma oggi è giorno di indiscrezioni, no? Di notizie, oggi è giorno di ricerca di un minimo di verità o di un minimo di divertimento, perché mi diverte molto questa storia su ciò che sta succedendo. Allora c'è un'indiscrezione, non so da dove arrivi, me la scrivono, ve la vendo così: Mazzarri al suo staff durante la festa del Napoli, due punti virgolette, preparatevi, si parte. Risposta: a Roma, mister. Replica: no, a Milano, all'Inter. Per chiudere Napoli, appunto. Allora, De Laurentiis ha detto che Bigon era a Londra non per trattare con Benitez, ma per vedere gli emissari del City, perché loro vogliono Cavani e il Napoli vorrebbe Dzeko. Però il Napoli sta cercando un allenatore. Benitez secondo me è una buona idea, detto tra noi. Comunque sentiamo De Laurentiis che cosa dice. Chi sarà il nuovo allenatore? Sarà sicuramente uno all'altezza del Napoli. Vabbè, uno all'altezza del Napoli, vediamo. E infine c'è anche lo scontato addio, ma ora ufficiale, di Perez a Mourinho. Hasta luego. Las conversaciones mantenidas con nuestro técnico José Mourinho, hemos llegado al acuerdo de dar por finalizada la relación contractual al término de esta temporada. Tanto el club como el entrenador coincidimos en que es el momento adecuado para dar por finalizada esta relación. Mourinho, adios. Ed ecco il quadro della movida degli allenatori. 800240024, ditemi voi la vostra. Io intanto vorrei sentire quella di Fabio Monti, inviato del Corriere della Sera, e a mio parere la voce più attendibile per quanto riguarda il fronte Inter nel giornalismo italiano. Ciao Fabio. Ciao, grazie, buongiorno a tutti. Allora, la voce si è persa, quindi è poco attendibile. La voce si è persa, le idee no, e le scrivi oggi. Questo mi pare, questo orientamento che ormai è chiaro, di quello di chiudere qui l'avventura con Stramaccioni, e questo è un punto. Ha preso una piega pessima negli ultimi mesi, stavolta Moratti sarebbe stato molto contento di poter ripartire con Stramaccioni. Ma mi pare che, insomma, quando i risultati sono così negativi poi diventa tutto complicato. Mi ricordo nel 1998, stiamo parlando di Capello al Milan, che dopo c'era la decisione, la volontà di riconfermarlo, di continuare con lui che aveva già il contratto eccetera, poi mi ricordo che una partita persa a Roma 5-0 convinse lo staff del Milan a cambiare e a prendere Zaccheroni. Anche perché in fondo, Fabio, quello che pensavo domenica sera guardando la partita, c'è modo e modo anche per il commiato, no? C'è modo e modo anche per salutare la propria gente nel proprio stadio, per chiudere partite che non contano nulla, e quello mi è sembrato il modo peggiore. Quello che dicevo ieri era: all'Inter è mancata anche la dignità di una difesa strenua della porta contro una squadra in forma come l'Udinese, insomma. No, ma non c'è dubbio su questo. Dei 5 gol, 4 fanno spavento, insomma. Tolto quello di Di Natale, che è una prodezza, peraltro ha avuto anche lo spazio eccetera, ma 4 gol veramente fanno pensare da dov'è che si riparte, insomma. Sì. Tu però oggi Stramaccioni va bene, va. Chi arriva? Mazzarri, ne ha parlato stamattina Moratti, hai sentito? Sì. Però tu oggi sul Corriere della Sera fai un nome molto diverso e anche molto più intrigante, che è quello di Roberto Mancini, che ritorna. C'è questa, che per adesso mi sembra una ipotesi di lavoro ancora vaga, insomma. C'è questa suggestione, insomma. Mancini è andato via dall'Inter a malincuore. Forse il divorzio è stato vissuto a malincuore anche da Moratti, che pure aveva deciso di cambiare dopo quello che Mancini aveva detto la sera di Inter-Liverpool. E poi c'era il fascino di arrivare a Mourinho, insomma. Ecco, io credo che se i due si vedessero per 5 minuti, credo che ripartirebbero insieme, insomma, visto che i tempi sono cambiati e tante cose sono cambiate. Poi in fondo sarebbe anche una bella cosa, insomma, perché Mancini in qualche modo ha bisogno di ripartire dopo 3 anni e mezzo con il City, che sono stati molto belli, molto vincenti, perché lui è stato mandato via perché non ha vinto la Coppa d'Inghilterra, ma non è che il City fosse lo United che ogni anno vince almeno un trofeo. Certo, poi Mancini, non dimentichiamo, un anno fa ha ridato al City un titolo che mancava da mezzo secolo, quindi questo è da non dimenticare. Questo per dire che fare l'allenatore è diventato un mestiere sempre più complicato e sempre più difficile. Certo. Io l'ho sempre detto, Mancini a me non è simpatico lui, ma questioni epidermiche, cioè non mi è mai stato simpatico nemmeno quando giocava e lo chiamavano Bacanè, tu ti ricordi, no? Il padroncino, il padroncito nella Sampdoria. È uno un po' così, non è istintivamente simpatico, però secondo me è un allenatore vincente, e questo bisogna ammetterlo. E se poi è un grande professionista. Sì. E secondo me è anche dietro quella scorta un po' da burbero così, anche un'ottima persona, insomma. Sì, ma non ho dubbi, pur non conoscendolo bene. Senti Fabio, un'ultima cosa, tu dovessi dire oggi più Mazzarri o più Mancini? No, credo che oggi sia più Mazzarri, insomma. Però capisco che il presidente vuole pensarci bene, anche perché stavolta non si può proprio sbagliare, insomma. Grazie Fabio, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Grazie. 800 24 00 24, ora mi piacerebbe molto parlare con voi e sentire cosa ne pensate, perché gli argomenti sono interessanti. Poi parleremo anche di Milan e questa vicenda. Vorrei sapere chi ha raccontato la balla, semplicemente questo, chi ha detto la bugia. Allora, Berlusconi la lettera l'ha scritta o non l'ha scritta? Perché se non l'ha scritta, allora Biscardone ci ha imbrogliati, ma se l'ha scritta ed è stata smentita dopo 17 minuti dal sito del Milan, allora la vicenda è più interessante, perché vuol dire che lì siamo davvero alla resa dei conti anche all'interno della società. Da una parte Silvio e la scudiera Barbara, e dall'altra parte Galliani, Allegri e chissà chi altri. Francesco da Bari, buongiorno. Buongiorno mister. Buongiorno Francesco. Dica. Un dubbio, una perplessità. Anche due, allora, tre, signor, quattro, io ne ho mille. Il signor Mazzarri lo scorso anno, anche quest'anno, valutava l'ipotesi di fermarsi per via dello stress, 12 anni di Serie A, panchina stressante, eccetera, eccetera. Per ora, se va all'Inter, come si sta dicendo, riuscirà a gestire la pressione di Milano, riuscirà a gestire una squadra comunque tutta da rifondare, eccetera eccetera, pressione dei tifosi che comunque visto cercano che, Francesco, visto che siamo in tema di bufale o mezze bufale, Mazzarri ha detto così perché ogni tanto spunta la moda che ha preso anche Guidolin, che ha preso molti del sono stressato, che è stata lanciata da Guardiola, sono stressato, sì, mi fermo per un anno sabbatico eccetera eccetera, se Mazzarri va all'Inter ci va con una carica da caricato a pallettoni, io garantisco io. Piuttosto in questo domino dancing degli allenatori, quando ho l'impressione che quando la musica si fermerà qualcuno rimarrà in piedi, perché se Allegri va via da Milano, mi sembra che Allegri sia l'ipotesi più accreditata per la Roma, come si dice già da tempo. Ebbene, resta appunto la panchina dell'Inter. Se è vero, come io di Fabio Monti mi fido molto, se è vero ci può essere un contatto con Mancini e che Moratti non ha ancora deciso, allora poi di panchine quali restano? Diventa difficile anche per Mazzarri. Magari un anno sabbatico se lo dovrà prendere, perché sarà rimasto in piedi quando la musica si spegnerà. Ci fermiamo, ma vi aspetto subito dopo la borsa, 800240024. Chi sarà il nuovo allenatore? Sarà sicuramente uno all'altezza del Napoli. Cacci i sordi! Io zappavo la terra. Tutti convocati. Non zapperà mai la terra se non per hobby Carlo Ancelotti, anche in queste ore si sta provando a capire, avete sentito l'addio ufficiale di Florentino Perez a Mourinho e ora c'è questo contraddittorio tra gli spagnoli e il Paris Saint Germain che dice per bocca di Leonardo capisco Ancelotti ma Real doveva aspettare. Stiamo cercando in tutti i modi di tenere Carletto, però capisco che si debba riflettere davanti a una proposta del Real Madrid. Insomma, un accordo verrà trovato e Ancelotti, a mio parere, finirà in questo domino sulla più prestigiosa panchina di Spagna, sia quella del Barcellona si intende, Mourinho andrà al Chelsea dove ormai è destinato da tempo. 800 24 00 24, messaggi 349 238 6666, questo è pertinente, lo scrive Luca, ma secondo lei Moratti sa che Mazzarri fa la difesa a 3 visti i precedenti con Gasperini? Secondo me Moratti lo sa che Mazzarri fa la difesa a 3, secondo me con Gasperini non era neanche tanto una questione, piuttosto un pretesto della difesa a 3, perché Moratti in realtà Gasperini mai l'ha voluto e infatti presto l'ha cacciato. Paolo Ascoli, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno. Niente, io volevo solo riallacciarmi al discorso del fatto dell'allenatore dell'Inter, il prossimo. Certo l'Inter c'ha proprio un sesto senso per prendere gli allenatori simpatici, voglio dire, l'operazione simpatia gli riesce tutti gli anni. Allora, poi la simpatia è qualcosa di personale, vabbè, poi alla fine. È ovvio che è una battuta, cioè dopo Mancini, Mourinho, Mazzarri, voglio dire che non è proprio questa perla. Mazzarri, vediamo, intanto in mezzo sono passati appunto Gasperini, che è un bravissimo professionista, c'è stato Leonardo, uno molto simpatico, molto colto, discretamente paraculo, ma sono tutte cose che sappiamo, poi Benitez non è fosse antipatico, se stiamo parlando di così di cabaret, no? Mazzarri è proprio detto lamentino, è un navigatore di mille mari, è uno che ha esperienza, è uno che a questo punto insomma la sua ha fatto bene praticamente sempre dove è andato, la sua grande chance se la sarebbe anche meritata, no? Assolutamente, però voglio dire, e poi comunque l'Inter deve avere gli allenatori antipatici per vincere, perché altrimenti con quelli simpatici, per il povero Stramaccioni che poverino era simpaticissimo, lo hanno l'hanno appiccato sulla croce. Lo hanno lasciato lì al sole, poverino, abbandonato da tutti. Quindi sono felice per l'Inter, finalmente tornerà uno antipatico e noi poi vediamo quale. Noi juventini godremo ancora molto di più di prima, quindi vediamo perché... con quelli antipatici le buscavate, Quindi non so se vi divertite di più, voglio dire, vediamo. A parte che le avete buscate all'andata anche dal simpaticissimo Stramaccioni, che quella sera la simpatia l'aveva lasciata a casa, però, se si ricorda. Però voglio dire, se andiamo a vedere il punteggio finale, mi sembra che... Ah no, no, no, vabbè. Andiamo a vedere il punteggio finale, mi sembra che sia Milan che Inter devono arrossire, no? Sconcerti fai i conti su Corriere della Sera, non ci avevo fatto caso, meno 52 per Milano dalla Juventus. Se aggiungiamo il fatto che il Milan, l'ho detto l'altro giorno, è la squadra che costa di più come ingaggi, mi pare 120-130 milioni di euro, e si è beccata 15 punti dalla capolista, che spende meno quattrini per gli ingaggi, per l'appunto, insomma, questo è un altro conto che si può fare. Raffaele Como. Oh, buongiorno. Vi chiamavo, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Magari scontato, ma vi ascolto sempre, visto che sono un viaggiatore, quindi spesso in macchina e ascolto sempre spesso la vostra radio. Grande. Due parole su Mazzarri, una risposta l'ascolto magari poi per radio da lei. Nel caso che arrivi all'Inter, io ovviamente sono interista, che cosa secondo lei, dove servirà, in che reparti, operare sul mercato, visto che Mazzarri sappiamo bene il tipo di gioco che fa, e non so all'Inter quanto bisognerà cambiare per poterlo supportare. Sì. Secondo, visto che a quanto sembra c'è un po' di bailamme relativo al fatto che ancora no, o non lo si vuole dire, o a quanto ci state dicendo, forse Moratti non è ancora deciso. Posto che ormai Tramaccioni probabilmente, giustamente, andrà a fare esperienza altrove, a me risulta comunque che se non va all'Inter rimarrà in zona, perché ha preso casa Como e sta già anche preparando a fare il trasloco. Chi? A quanto mi risulta. Mazzarri. Ah, Mazzarri. Sì, è un'ipotesi che prende corpo ogni giorno, ogni momento, non ogni giorno, perché qui si parla di momenti, ogni momento di più. Chi prenderà per il suo gioco? Mazzarri innanzitutto è molto bravo a fare le cose per bene con quelli che ha, perché io ricordo sempre ha conquistato un posto in Champions League e poi ha giocato una meravigliosa Champions League con una difesa che, con tutto rispetto a Ronica, Cannavaro, Campagnaro, insomma, questa gente penso che non siano il massimo dell'espressione dei top player difensivi europei, no? Sto facendo un giro di parole che non ci ritrovo neanche più. L'Inter ha già preso Campagnaro, e che potrebbe essere un altro indicatore o un'altra indicazione. Mazzarri è bravissimo perché spreme il meglio da quello che ha, ed è riuscito a farlo per 3 anni consecutivi al Napoli. Benvenuti al processo del lunedì. Lunedì. Alessandra Bocci, inviata della Gazzetta dello Sport, sei contenta? Ti ho portato al processo. Guarda, non aspettavo altro, però. Non aspettavi altro, eh? Uno pensa sempre di aver visto più o meno tutto, no? Ti sono venuti i brividi. Se vuoi faccio ancora la voce da Biscardi. No, è che io una cosa come quella, non solo quello che è successo ieri, poi smentite, cose. In generale, quello che sta accadendo al Milan, io penso non avrebbero potuto concepirlo nemmeno Zamparini, Cellino e Spinelli, il mio presidente, che sappiamo che anche lui, in quanto ha i doneri fantasiosi, se la cava parecchio bene. Insieme, secondo me, non ce la potevamo fare, per i modi, per i tempi, per le motivazioni. È strano. Ma dimmelo tu, che conosci bene l'ambiente del Milan. Secondo me strano non è, perché insomma non... Così come Leonardo, Allegri non gli è mai garbato, come si dice in Toscana, ha resistito 2 anni più di Leo, semplicemente perché Leo ha deciso comunque anche lui di andarsene, e poi perché comunque c'è il piccolo particolare dello scudetto che aveva vinto al primo anno. Sì. Però adesso apprendiamo che lo scudetto ovviamente l'ha vinto al primo anno solo perché c'era Ibrahimovic, l'ha perso al secondo anno perché è colpa sua, e quest'anno è arrivato terzo, e tutti addetti ai lavori, dal CT della Nazionale in giù, dicono che ha fatto un eccellente campionato, e per come, insomma, per quello che c'era in una squadra che si doveva ricostruire. e apprendo che questo è avvenuto perché Berlusconi gli ha dato dei consigli, quindi vabbè, a questo punto certo. Sì, senza dimenticare però per la cronaca, mia cara Alessandra, che come dicevo prima, se facciamo i conti della serva, il Milan è la squadra che al monte ingaggi più elevato e si è beccato un 15 dalla Juventus, eh. Quindi cioè, Berlusconi può far leva anche su questo, eh? La squadra mi costa 120-130, quelli quanto spendono? 110, che, mi ha beccato un meno 15. Quello però non penso che dipenda dagli errori tattici presunti o veri o ripetuti di Allegri, insomma, dipende dai costumi che la società ha avuto per tanti anni, perché sicuro si è legata molte pietre al collo, certo. Hanno scelto i giocatori, hanno fatto affari in altro modo, adesso hanno scoperto che esiste il fair play finanziario, che poi è una creatura per me abbastanza mitologica. Anche secondo me. Ecco. Anche comunque secondo me. Hanno scoperto i manager vecchi e nuovi, da Barbara Berlusconi a tutti questi nuovi innesti al sempiterno Adriano Galliani, e insomma devono fare i conti con il fair play finanziario. Quindi la prima mossa è cacciare un allenatore che comunque, con evidente fatica e difficoltà, questo non nega nessuno, è arrivato terzo, con gli aiutini, con tutto quello, con i suicidi dell'Inter, tutto quello che volete, però è arrivato terzo il risultato l'ha centrato, lui l'ha centrato, però insomma serve un pretesto, e se non arriva il pretesto, allora prendo il diavolo per le corna, dice Berlusconi. Alessandra, stai lì che mi devi chiarire un paio di dubbi, perché se no non ci dormo. Cavani è uno spreco a Napoli, diciamo le cose come stanno, perché uno che segna ogni 3-4 palle massimo, sì, che ha, riesce a tirarne apposta un paio, almeno una ne segna, mi pare che è proprio sprecata a Napoli. Tutti convocati. Eccoci tornati al processo di Biscardi. Alessandra Bocci, ci dicono diverse cose. Signora Bocci, sia onesta, senza i continui rigori, il Milan dove sarebbe finito massimo? Vabbè, questa è una. Oppure, senti questa anche a te, siete veramente penosi lei e i suoi amici con questa santificazione di Allegri, mediocre allenatore che vale ben poco, virgola, comunisti. Wow! Vabbè, sono divertenti. No, ma io nessuno sta santificando Allegri, infatti, io dico soltanto che di questa vicenda, di questo divorzio che ormai appare inevitabile, mi sembrano un pochino bizzarri. Ecco, ma sono poi bizzarri, sì, ma come tutti gli allenatori che non piacciono a Moratti, diventano bizzarri perché Gasperini e Benitez alla prima occasione non li voleva, e quando non lo vuole un presidente, sì, ma se dice, non li vogliono, perché li prendono? Ma li prendono perché gli dicono prendi, perché Branca va gli dice prendiamo questo presidente, prendiamo questo, dai, prendiamo questo che è bravo, prendiamo questo, lui dice ah va bene, ok, prendiamo questo. Poi la conferenza stampa di Gasperini manco si presenta, e già lì era finita l'avventura del signor Bonaventura. Però scusa Alessandra, devi togliermi rapidamente un paio di dubbi che mi ronzano in testa. Sì. Allora, i rapporti tra Galliani e Berlusconi, visto che noi ci piace essere politicamente scorrettissimi, i rapporti tra Galliani e Berlusconi a me non sembrano più così solidi, tanto che in questa lettera presunta presunta tale si parla anche di completa riorganizzazione societaria. Sì, io credo che quella non sia una lettera, che possano essere appunto delle confidenze comunque fatte e poi così buttate giù, diciamo, traslate e riferite da un giornalista che comunque non dimentichiamo che è sempre stato molto vicino a Berlusconi, appunto. Tanto è vero che qualche anno fa Berlusconi ha scelto il processo per proclamare al mondo che Kakà sarebbe stato a vita a Milan, poi se n'è andato qualche mese dopo, ma va bene, però insomma era rimasto rifiutando il Manchester City. Quindi io molti anni fa ricordo anche un intervento di Berlusconi quando si trattava di comprare Vialli al Milan, stiamo parlando della preistoria, sì, è casa sua il processo. È casa sua, e va bene, ognuno poi sceglie di fare come vuole. Io credo che sia stata una cosa detta in questo senso, ormai lo abbiamo capito che Berlusconi non ne poteva proprio più. non so perché, perché forse allora era giusto cambiare l'anno scorso, quando si poteva considerare, qualcuno poteva considerare comunista e non deficitaria il risultato ottenuto dal Milan, ma quest'anno mi pare, continuo a pensare che sia una cosa stravagante. Lui ha continuato a difenderlo, Galliani, a dire poi si sistema, poi si vede, parliamo col presidente, bla bla bla, quindi sembra più che altro una cosa tipo non, io lo voglio mandare via, non mi piace, non lo voglio, è come, sai, Natale in casa Cupiello, per esempio, non mi piace, no? Una roba così, quindi se tu continui caccio anche te, più o meno, no? Adesso molto estremizzando, detto questo, che si arrivi a una rivoluzione totale di questo tipo, di passaggio di poteri da Galliani a non so chi in casa Milan, ecco, sinceramente per il momento non ci credo. Poi c'è la figura di Barbara, che a Galliani non è mai andata a genio, quest'anno è stata un po' ridimensionata la figura di Barbara, dicono le vocine, lo dico io, tu non c'entri niente, dicono le vocine che fosse lo stesso, l'anno scorso fosse stato lo stesso Galliani, da sempre vicino ad Allegri, ad emarginare un po' Seedorf dalla squadra, un Seedorf che non è mai stato in cima alle simpatie di Adriano Galliani, figurati se Berlusconi lo richiama ad allenare al posto di Allegri, qui è invece molto vicino. Il Seedorf allenatore, il Seedorf giocatore, credo no che sia stato molto molto nelle simpatie di Adriano Galliani, certamente non come Pippo Inzaghi, che era uno dei suoi cavalli di battaglia, al quale credo avrebbe rifatto il contratto fino agli 85 anni, perché il rapporto di Galliani con Inzaghi era di natura proprio così, proprio un'altra cosa, su un altro livello. Il concetto di Seedorf è che secondo me nessuno l'ha emarginato, io continuo a pensare che sia la carta d'identità che a un certo punto fa sì che i giocatori debbano cambiare attività, però chi lo capisce in tempo, c'è chi non lo capisce e lo capisce dopo e si rende conto, in effetti ho fatto un sacco di casino, invece ho fatto bene a smettere, e ti garantisco che capita. E poi ci sono quelli che non lo capiscono né prima né dopo, l'anno scorso ho avuto l'impressione che Seder sia stato un po' così esautorato a un certo punto della stagione, però solo un'impressione mia che mi tengo da politicamente credo scorretto, credo che molto dipenda dal rapporto con Pato, che lui a un certo punto ha cominciato a difendere, eccetera, siccome nello stesso periodo più o meno Galliani stava cercando di fare un'operazione di mercato forse. Però ecco, io non credo che ci sia stato il gelo, se c'è stato, c'è stato alla fine, quando Seedorf probabilmente si aspettava un altro rinnovo di contratto, e questo non è avvenuto. Non gli è stato giustamente concesso. Adesso magari secondo ne avrà un altro. Sì, poi magari sarà perché sono comunista, però ecco, io penso sei una comunista. E forse per questo che credo che Seedorf abbia fatto bene andare a giocare da un'altra parte, non lo so, però io continuo a pensare che, anzi, l'errore di tanti club è quello di procedere troppo spesso sulla strada del sentimento. Certo, e poi hai ragione. Questa volontà di rinnovamento, di volontà e di managerialità. E l'impossibilità di farlo perché hai dei contratti come delle pietre legate al collo, come dicevo prima. Senti, Alessandra La Rossa, mi raccomando, non te la prendere, torna di nuovo a questo programma politicamente scorrettissimo. Ma voglio dire, alla Boccassini dico di peggio, quindi mi preoccupo questo. Un saluto, un abbraccio a tutti. Grazie, ciao. Grazie Alessandra Voci, inviata della Gazzetta dello Sport. Luciano Frosinone, buongiorno. 800 24 00 24, dica. Sì, buongiorno. Intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Guarda, io volevo intervenire sul discorso Milan Allegri. Sono un allenatore dilettante da tanti anni, insomma, ho sempre giocato, un pizzico di esperienza ce l'ho, sempre compatibilmente con i contesti nostri, insomma. E poi milanista. Per quanto riguarda il discorso del Milan, io andrei più di Allegri sul Milan, andrei più sulla qualità del gioco, che effettivamente non c'è stata in tutti questi 3 anni, non c'è stata. E questo lo reputo una sua colpa insieme alla struttura societaria, e qui mi ricollego alla lettera di Berlusconi a rivedere la struttura societaria, perché su alcune scelte effettivamente c'è stata la mancanza di competenza, dico una cosa sola. Un centrocampista rapido, il Milan su 3 anni che non ce l'ha, E il Milan è una squadra molto prevedibile. Forse di più. Il Milan è, negli ultimi anni è sempre stato storicamente molto prevedibile, ha sempre fatto un certo tipo di gioco basato sul possesso palla, ma già con Ancelotti, insomma, aveva questo tipo di struttura. Paolo da Pordenone, provincia di Pordenone? Domani. Sì, sono io. Paolo, domani ha tempo? Perché qui... Ma io adesso sono in quel di Udine e non è male, dai, ha schiarito un pochettino. Vabbè, quindi... allora senta, se aspetti lì perché sennò mi chiudono il microfono. Domani il primo della lista sarà Paolo da provincia di Pordenone, sempre che abbia tempo, tanto noi due alle due domani siamo qui. Grazie a Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. E rieccoci tornati al processo di Biscardi. Questa luce sparata sembra usando. Tutti convocati.